Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata. Eccoci al nostro appuntamento mensile, sempre raccolti attorno alla parola di Dio, in modo particolare agli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo di continuo per cogliere non solo la trama narrativa di Luca, ma anche il messaggio che si nasconde tra le righe e le provocazioni per la Chiesa di oggi. Fin dall'inizio della nostra trasmissione, come sempre, chiedo l'aiuto dello Spirito Santo, l'unico che sa rendere viva, dinamica la parola di Dio, perché non parli solo alla nostra testa, ma alla nostra vita, e anche l'intercessione di Maria, che è colei che ha generato la parola e poi ha permesso alla parola di continuare a diffondersi attraverso il Figlio, attraverso Gesù Cristo. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere tra le mani un'edizione del Nuovo Testamento, o meglio un'edizione della Bibbia, mentre a quanti stanno guidando o comunque stanno svolgendo altre attività ma sono sintonizzati con noi, chiedo la disponibilità di quell'ascolto, che è un ascolto che si lascia interpellare dalla parola che insieme condivideremo. Come sapete, le nostre puntate si dividono sempre in due parti. La prima parte è quella dove io spezzo la parola a partire da alcune suggestioni, alcuni passaggi significativi. La seconda parte è quella in cui voi completate alcuni passaggi che possono essere rimasti in ombra attraverso i vostri interventi, le vostre domande, le vostre riflessioni. E come vi dicevo, nella nostra lettura degli Atti degli Apostoli siamo arrivati al capitolo 17. La volta scorsa abbiamo visto come l'Apostolo Paolo, nella fondazione della comunità di Filippi, ha inaugurato uno stile nuovo di missione, uno stile che si è poi imposto anche nelle altre comunità. Filippi aveva un ruolo molto particolare perché, come abbiamo visto, era la prima comunità dell'Europa allora conosciuta era considerata come il nuovo volto della comunità impostato proprio dall'Apostolo Paolo. Abbiamo visto che a Filippi, dopo un successo iniziale, Paolo incontra l'ostilità della città, fa una lunga esperienza di prigionia e una volta che viene liberato dalla prigionia, che tra l'altro si rivela particolarmente feconda in quell'occasione, si dirige verso altri orizzonti. Ed è proprio su questi altri orizzonti che ci soffermiamo questa sera. Il racconto degli Atti degli Apostoli ci farà fermare prima a Tessalonica e poi a Berea. A questo punto ci fermeremo lasciando la tappa di Atene alla puntata successiva. Noteremo che il testo degli Atti degli Apostoli presenta in questo caso molte affinità con alcuni passaggi della lettera che Paolo scrive ai credenti di Tessalonica, proprio perché nell'una e nell'altra vengono richiamate le modalità, le tappe del passaggio di Paolo e le caratteristiche del suo annuncio. Allora anche questo è interessante perché ci fa vedere come da due prospettive diverse, dalla prospettiva di chi ha vissuto queste cose nella figura di Paolo e nella prospettiva di chi le ha narrate, probabilmente vissute solo in parte, quella di Luca, negli Atti degli Apostoli, ci sono molte affinità. Questo ci dice che il racconto che noi abbiamo nel Nuovo Testamento è un racconto consolidato comunque dal fatto che diverse posizioni sono messe a confronto. Iniziamo quindi la nostra lettura del testo. Capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, la prima parte della nostra riflessione la dedichiamo ai primi 4 versetti. Percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove i giudei avevano una sinagoga. Secondo il suo solito, Paolo si recò presso di loro e per 3 sabati discusse con loro a partire dalle scritture, mostrando e sostenendo che il Messia doveva patire e risorgere dei morti e che quel Gesù che io vi annuncio, questi è il Messia. Alcuni di loro si lasciarono convincere e si unirono a Paolo e a Sila, come pure un buon numero di greci credenti in Dio e non poche donne tra le più in vista. Bene, Paolo arriva quindi a Tessalonica, lasciando Filippi, passando per Anfipoli e Apollonia. In totale sono circa 150 chilometri. Dobbiamo pensare che Anfipoli e Apollonia erano probabilmente delle tappe di sosta tra un giorno e l'altro, tra una camminata e l'altra di Paolo. E Paolo si continua a presentare a noi come un instancabile percorritore di vie, di strade, pur di annunciare la buona notizia. Notiamo che nelle due città, sia quella di Tessalonica sia Berea, Paolo sperimenta, narra, cioè Luca narra l'esperienza di Paolo seguendo uno schema ben preciso. Si parla del viaggio, al viaggio segue l'annuncio nella sinagoga, dopo l'annuncio nella sinagoga viene l'accoglienza, dopo l'accoglienza il rifiuto. Lo schema è sempre questo. E sembra quasi uno schema stereotipo per aiutarci a fissare bene l'attenzione sulle vie che l'annuncio spesso percorre, che sono vie che da un lato ottengono l'accoglienza, dall'altro però sperimentano, ottengono, suscitano il rifiuto. È come se la buona notizia del Vangelo, per essere portata, debba sempre tenere insieme queste due dimensioni, l'accoglienza da un lato e il rifiuto dall'altro. E coloro che sono, in un certo senso, i messaggeri del Vangelo, devono mettere in conto fin dall'inizio queste due dimensioni, accoglienza e rifiuto, non esaltandosi per le prime e non deprimendosi per le seconde. Il Vangelo chiede sempre quel coinvolgimento che rende l'annunciatore grato per l'accoglienza che riceve, ma anche forte di fronte al rifiuto che può sperimentare. Queste due dimensioni noi le troviamo proprio anche nella corrispondenza tra Paolo e i fratelli di Tessalonica. Scrivendo al capitolo 2 della prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo ricorda questi fatti ai fratelli di Tessalonica, dice: «Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete», non dimentichiamo, a Filippi Paolo ha sperimentato una dura esperienza di prigionia, «abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, e il nostro invito nella fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori». Allora, notate come in questo saluto ai fedeli di Tessalonica Paolo si pone proprio di fronte a queste due dimensioni, l'accoglienza da un lato e la lotta, gli oltraggi, la prigionia, la fatica dall'altro. Però precisa, noi non cerchiamo di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori, tenendo presente che il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, da disoneste intenzioni e neppure da inganno. Cioè, Paolo è consapevole che portare l'annuncio del Vangelo non è stato semplice, neanche a Tessalonica. Arriva da Filippi, dove ha vissuto un'esperienza dura, a Tessalonica l'esperienza è più semplice rispetto a quella di Filippi, ma questo non significa che non ha dovuto affrontare alcune lotte e vedremo quali sono. Ugualmente riprende il discorso dell'accoglienza del Vangelo pochi versetti dopo, nei versetti ad esempio 9 e 12, sempre della prima lettera ai Tessalonicesi, dove dice: «Voi ricordate, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che come fa un padre verso i vostri figli abbiamo esortato ciascuno di voi. Vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Quindi la sottolineatura di Paolo è: accanto alle fatiche quotidiane emerge anche quella lotta costante caratterizzata da un lavorio, da un lavoro anche concreto per provvedere ai propri bisogni, un lavoro concreto in modo da accompagnare l'annuncio del Vangelo, cioè non è stato tutto semplice, facile, no, Paolo si è impegnato e accanto alle lotte e alle fatiche di chi poteva rifiutare l'annuncio del Vangelo, Paolo ha messo anche l'impegno su, un impegno che si è concretizzato anche nel fatto di essere autonomo dal punto di vista economico. Cosa possiamo attingere da questi primi quattro versetti del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli sullo stile missionario di Paolo quando arrivava in una città? Allora, prima di tutto notiamo che Paolo inizia sempre dalla sinagoga, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa. Paolo appena arriva cerca un punto d'appoggio in chi ha già le radici ben messe in Dio. È vero che poi porterà l'annuncio ai pagani, però il primo tentativo, il primo annuncio lo porta a chi è già ben radicato. All'inizio, all'interno della sinagoga però Paolo non si limita a rivolgersi ai soli giudei. Nella sinagoga Paolo ha un occhio di predilezione verso i cosiddetti cercatori di Dio, cioè i cosiddetti timorati di Dio, che sono dei pagani che guardano con simpatia al giudaismo, ne apprezzavano alcune norme e lo stile di vita, ma non se la sentivano di osservare tutte le norme della legge e di farsi circoncidere. Erano quelli che noi oggi chiameremmo i cercatori di Dio. Paolo all'interno della sinagoga cerca soprattutto loro. Perché cerca loro? Perché sono coloro che poi faranno da ponte con tutto il mondo pagano. Però è più facile accostare chi in qualche modo è già passato dagli idoli all'unico Dio, chi in qualche modo osserva già delle norme morali riconoscendone il valore, per poi renderli testimone all'interno del loro mondo, del mondo pagano. Quindi, prima di tutto, notiamo lo stile missionario di Paolo è quello sì di partire dal giudaismo, con un occhio di predilezione però verso coloro che riusciranno a fare ponte con le persone un pochino più esterne. Secondo aspetto, l'annuncio che Paolo propone parte sempre dalla scrittura. Ci viene detto, secondo il suo solito, Paolo si recò presso di loro, per tre sabati discusse con loro a partire dalle scritture. Cioè, l'annuncio trova il suo punto di appoggio nella parola di Dio. È grazie alla parola di Dio allora conosciuta che Paolo mostra e sostiene che il Messia doveva patire e risorgere dei morti e quel Gesù che io vi annuncio, questo è il Messia. Quali sono le scritture a cui Paolo attinge? Per rispondere a questa domanda, l'operazione che bisogna fare è quella di andare a vedere le citazioni che Paolo usa. E se noi prendiamo l'intero epistolario paolino, noteremo che l'Apostolo sceglie soprattutto tre ambiti delle scritture antiche. Due profeti gli sono molto cari, Isaia e Geremia, che sono i profeti che vivono l'esperienza dell'esilio e le fatiche dell'annuncio. E poi un libro della Torah, un libro di quello che è il nostro Pentateuco, il libro dell'Esodo. Attraverso la parabola di vita del popolo e attraverso la parabola di vita delle guide profetiche, come potevano essere Isaia e Geremia, Paolo spiega chi è Gesù dando consistenza all'annuncio di cui si fa portavoce. Perché è importante notare quali sono le scritture a cui attinge Paolo? Perché è importante notare che Paolo, quando spiega che Gesù è il Messia, fa riferimento a Mosè, al popolo di Israele, a Isaia, a Geremia. Perché questo ci fa capire che l'annuncio ha sempre bisogno della concretezza di una vita. Paolo non porta delle nozioni astratte che vanno a toccare solo la testa di chi ascolta, ma porta l'esperienza di vita di un popolo e di alcune persone precise, Mosè, Isaia, Geremia, persone che sono state scavate, ribaltate, rovesciate dalla parola di Dio. Allora l'annuncio ha una sua forza, perché non vengono portati dei concetti, ma viene trasmessa un'esperienza di vita. È questo che rende Vangelo ciò che Paolo annuncia. Paolo non annuncia dei concetti, annuncia una persona. E allora, per far capire chi è Gesù, Paolo aveva bisogno di far notare come Dio aveva già operato in alcune figure significative che hanno fatto fare dei passaggi enormi nel popolo di Dio. Ecco, in Gesù tutto questo raggiunge il compimento perché è Dio stesso che assume un volto in Cristo, diventando colui che fa compiere il vero esodo al popolo di Israele. Allora notiamo come dall'annuncio missionario di Paolo, il missionario ha a cuore la parola di Dio. La parola di Dio non è una cosa tra tante altre. Le scritture, per noi la Bibbia, diventano un elemento essenziale. Guardate, proprio oggi è stata presentata la lettera apostolica che il Santo Padre rivolge a tutta la comunità cristiana al termine del Giubileo. Notiamo subito all'interno di questa lettera apostolica come se tra le indicazioni per continuare a vivere le dimensioni della misericordia, una delle indicazioni ferme qual è? Quella di rimanere radicati nella Bibbia. Al numero 7 della lettera apostolica, Misericordia et Misera, o Misera et Misericordia, troviamo questa indicazione per tutta la Chiesa di Dio. La Bibbia, dice Papa Francesco, è il grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio. Ogni pagina è intrisa dell'amore del Padre che fin dalla creazione ha voluto imprimere nell'universo i segni del suo amore. Lo Spirito Santo, attraverso le parole dei profeti e gli scritti sapienziali, ha plasmato la storia di Israele nel riconoscimento della tenerezza e della vicinanza di Dio, nonostante l'infedeltà del popolo. Notate, la Bibbia qui è vista sotto il profilo della misericordia. La vita di Gesù e la sua predicazione segnano in modo determinante la storia della comunità cristiana, che ha compreso la propria missione sulla base del mandato di Cristo di essere strumento permanente della sua misericordia e del suo perdono. Attraverso la Sacra Scrittura, mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il Signore continua a parlare alla sua sposa e le indica i sentieri da percorrere, perché il Vangelo della salvezza giunga a tutti. E ecco la concretizzazione del Papa. È mio vivo desiderio che la parola di Dio sia sempre più celebrata. E celebrare la parola non significa solo andare a messa, mi raccomando, celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso di essa si possa comprendere meglio il mistero di amore che promana da quella sorgente di misericordia. E cita Paolo, lo ricorda chiaramente l'Apostolo, tutta la scrittura ispirata da Dio è utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. A Tessalonica Paolo vive questa dimensione, no? E poi arriva la concretizzazione, il Papa dice, sarebbe opportuno che ogni comunità in una domenica dell'anno liturgico potesse rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza, l'approfondimento della Sacra Scrittura, una domenica dedicata interamente alla parola di Dio, per comprendere l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. E poi aggiunge, non mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della parola. Quindi La proposta del Santo Padre, oltre a celebrare, conoscere e diffondere la parola, è dedicare ad essa una domenica dell'anno liturgico con iniziative particolari. Perché? Perché il missionario non può prescindere da questo. Non si può andare a portare l'esperienza di Cristo con i dogmi. Bisogna, prima dei dogmi, radicare nell'esperienza della parola, dando all'annuncio dei volti concreti, come Paolo ha fatto a Tessalonica, Mosè, Isaia, Geremia. Ecco, vedete quante provocazioni in pochi versetti, come questi degli Atti degli Apostoli, della missione di Paolo negli Atti degli Apostoli. Quindi, in questi versetti abbiamo detto, lo stile missionario di Paolo, che va in sinagoga ma punta ai timorati di Dio, quindi a quelli che fanno già da punte verso il popolo pagano. E poi un annuncio basato sulla parola di Dio. Terza dimensione è la dimensione del lavoro. Abbiamo letto prima, Paolo, per non essere di peso a nessuno, cosa fa? Porta avanti un duro lavoro e una fatica, lavorando, dice, giorno e notte. Quindi, tra un sabato e l'altro, in quei tre sabati in cui discute nella sinagoga di Tessalonica a partire dalle scritture, Paolo lavora. E uno dice, ma come mai lavora? Solo per mantenersi? Certo, da un lato è perché deve mantenersi, dall'altro perché il lavoro lo mette in contatto con coloro che sono immersi nella realtà del mondo e quindi favorisce, come dire, una sorta di sintonia, di testimonianza che arriva in modo quasi naturale, testimonianza di vita, testimonianza di parole in base a quello di cui si può parlare mentre si lavora. E questo diventa una provocazione anche sullo stile missionario delle nostre comunità. Pensiamo alle comunità religiose, quante persone ruotano attorno a una comunità religiosa, da collaboratori a cooperatori, a simpatizzanti, a amici. Se una comunità religiosa è viva, uno uscendo esce come una spugna che si bagna di ciò che è buono, no? E poi lo trasmette agli altri, però ovviamente la comunità deve essere viva. Pensiamo a una comunità parrocchiale. Se gli animatori, gli operatori di quella comunità parrocchiale, il parroco, i catechisti, i responsabili dei singoli gruppi, sono persone immerse in Dio, bagnate di Dio, non possono non bagnare quelli che gli stanno vicini. E quindi è come dire un'opera che si trasmette grazie alla vitalità che abita in ciascuno. Quando c'è dentro di noi la vita prima o poi si trasmette. Ed è chiaro che in una comunità parrocchiale l'immersione nella quotidianità cosiddetta laica, come noi la definiamo, è ancora più forte e quindi la trasmissione dell'annuncio diventa ancora più significativa. Ecco, vi lascio rileggere questi primi quattro versetti del capitolo 17 mentre facciamo un breve stacco musicale per poi continuare a vedere cosa succede a Tessalonica subito dopo, perché abbiamo detto all'accoglienza si integra subito il rifiuto, che sono le due dimensioni dell'annuncio del Vangelo e vanno messi in conto. Quindi un breve stacco musicale e poi continuiamo con il capitolo 17. Allora, abbiamo visto come Paolo arriva a Tessalonica e in quei tre sabati in cui discute con i tessalonicesi in sinagoga emergono i primi frutti. Ci viene detto che alcuni, notate, no, la progressione, alcuni giudei si lasciano convincere, alcuni. Un buon numero di greci credenti in Dio si lasciano convincere, vedete, i timorati di Dio sono quelli che sono raggiunti in più gran numero, i giudei solo pochini, invece i timorati di Dio aprono subito il cuore e sono quelli a cui Paolo punta per fare da ponte con i pagani e poi aggiunge, non poche donne tra le più in vista, qui le traduzioni sono diverse. Non poche mogli di personalità importanti, traduce qualcuno, non poche donne tra le prime, tra le più nobili, traduce qualcun altro. Comunque notiamo pochi giudei, molti timorati di Dio, molti greci e alcune donne. Già affiora a Tessalonica la tipica composizione delle comunità paoline. Nelle comunità paoline giocano un ruolo chiave i giudei, che sono in genere però in minoranza, i pagani convertiti, questi greci, che sono il grosso, e anche le donne. L'abbiamo visto la volta scorsa a Tessalonica, una comunità dal volto femminile. Ugualmente a Tessalonica la comunità come quella di Filippi ha un suo volto femminile, cioè le donne nelle comunità paoline hanno uno status sociale che supera quello del giudaismo del tempo o comunque della cultura del Medio Oriente del tempo. Vediamo cosa succede dopo, versetti 5-9. I giudei, mossi da invidia, reclutarono per strada alcuni malviventi, sobillarono la plebe e turbarono l'ordine della città. Si presentarono in casa di Giasone con l'intenzione di far comparire Paolo e Sila davanti all'assemblea del popolo. Non trovandoli, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai capi della città, gridando: «Quelli che hanno messo a soqquadro tutta la terra, eccoli ora qua!» E Giasone li accoglie a casa sua. Tutti costoro agiscono contro le leggi di Cesare e affermano che c'è un altro re, Gesù. Con tali clamori turbarono la folla e i capi della città, i quali, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Allora, notiamo che in questi versetti, dopo la fase del successo, viene presentata la fase del tormento, cioè la fase in cui praticamente il Vangelo viene rifiutato. E tutto nasce a motivo di questi giudei che, mossi da invidia, reclutano per strada malviventi, creando agitazione tra la folla. Cosa emerge da questi versetti? Prima cosa, cominciamo a guardare a questo misterioso Giasone, che è quello che rischia di rimetterci le penne. Giasone aveva ospitato Paolo, chissà, magari l'aveva ospitato anche solo per dargli un lavoro, e poi pian piano si era lasciato coinvolgere nell'annuncio, nella testimonianza che Paolo portava, e già Giasone rischia il linciaggio insieme a questi fratelli. La cosa interessante è che Giasone tutela Paolo, che non viene trovato in casa sua, ed espone se stesso. Questo ci fa subito capire una cosa: accogliere il Vangelo significa sempre compromettersi. Non si può stare sulla soglia, non si può andare di notte per tanto tempo come faceva Nicodemo, che andava a chiedere qualche informazione qua e là. A un certo punto bisogna uscire allo scoperto, e uscire allo scoperto significa compromettersi, impegnarsi, nel senso letterale della parola, impegnarsi, cioè gettare se stessi come pegno davanti agli altri, come pegno per il Vangelo. E allora notiamo come Giasone e questi primi fratelli, subito all'inizio della loro adesione al Vangelo, sono subito provati dal mistero della croce, che è il cuore del Vangelo che porta Paolo. Seconda cosa, per contro a Giasone e ai fratelli, che si gettano come pegno in nome della verità che hanno accolta nel loro cuore, i giudei fanno una pessima figura. Perché fanno una pessima figura? Prima di tutto perché reclutano dei malviventi per dire delle falsità. E in secondo luogo perché, in nome di questa falsità che vuole soffocare la verità, rinnegano Dio. Perché dico questo? Cioè si presentano i capi della città dicendo che il capo di reato di Paolo e dei suoi è quello di affermare che c'è un altro re, Gesù. Cioè si ergono a persone che tutelano la regalità dell'impero, l'impero che schiaccia il giudaismo, che calpesta i valori del giudaismo, viene qui difeso dai giudei. Interessante. quando non si agisce in buona coscienza e si vuole solo calpestare la verità, si è pronti addirittura a tutelare chi ci calpesta, pur di soffocare la verità. È una delle aberrazioni più grandi che si possono vivere, si possono fare. E Paolo verso questi giudei, non a caso nella lettera tessalonica, nella prima lettera ai Tessalonicesi, ha delle parole molto dure. Scriverà così ai Tessalonicesi: voi, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio, sono nemici di tutti gli uomini. Sono parole dure, eh? Essi impediscono a noi di predicare i pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano sempre più la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Notate le parole dure di Paolo verso il mondo giudaico, ma se noi le leggiamo alla luce del racconto degli Atti degli Apostoli, capiamo il senso, cioè erano arrivati al punto di difendere l'imperatore pur di soffocare l'annuncio che Paolo porta. Quindi, da un lato Giasone, che espone se stesso senza timore per difendere la verità del Vangelo e per difendere Paolo, dall'altro i giudei, che pur di soffocare la verità, falsificano i valori fondamentali in cui loro credono. E al centro c'è la figura di Gesù, che viene qui proclamato direttamente e indirettamente, polemicamente e veramente, come il Re. Abbiamo appena celebrato la festa di Cristo Re e quindi penso che siamo anche in perfetta sintonia nella nostra lettura continua degli Atti degli Apostoli. E qui abbiamo due visioni di regalità molto diverse. Quella che per i giudei viene vista come un oltraggio è la regalità imperiale, la regalità che si fa forte, la regalità che domina, la regalità dove monarchica, dove uno decide per tutti. La regalità di Cristo è di tutt'altro servizio. Il suo trono è una croce, la sua corona è una corona di spine, la sua parola d'ordine è il servizio, il suo movimento principale non è quello di ascendere, ma di scendere in mezzo, di kenosi, di scendere in mezzo agli uomini. Quindi si parla di due regalità totalmente diverse, quella incarnata da Giasone e i suoi fratelli che si gettano come pegno in mezzo a questa folla aizzata falsamente, e la regalità invece dell'imperatore, che è quella proclamata paradossalmente dai giudei. Il racconto su tutto questo fa un po' di ironia, perché dice tanto polverone, e poi i politarchi cosa fanno? Prendono la mancia e rilasciano Giasone e gli altri. È chiaro che di fronte all'accusa, al polverone che era stato sollevato, la conclusione della scena va a discapito dei